Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Mi sembri la Dea Kali. Te la ricordi la colonna sonora di questo film? Bellissima. È quella del film The Millionaire, ambientato in India, protagonista Jamal, un ragazzo 18enne di Mumbai, cresciuto nelle baraccopoli, che sbanca la versione indiana del quiz televisivo Chi vuole essere milionario. Chissà se Jamal, con i suoi 20 milioni di rupie, li avrebbe ottenuti in banconote da 500 o 1000, tagli piuttosto opulenti, grossi, no? Oggi non sarebbe più possibile, perché leggiamo dai giornali che il premier indiano Narendra Modi, eletto con un programma di riforme fra cui spicca la lotta alla corruzione, le ha bandite. Cosa ti ricorda? Ebbene, nostra banconote da 500 euro. Signor Mario Draghi le sta ritirando tutte. E infatti ha deciso di sospendere la produzione di questo bigliettone, perché insomma può facilitare attività illegali di riciclaggio. Però non buttatele via. No, no, ma noi ci abbiamo... datele a noi. Esatto, che non le abbiamo mai viste, manco dipinte. Io non l'ho mai avuto proprio l'occasione di fare amicizia con questo taglio di banconote. Vabbè. Anche, ma non importa, possiamo sempre guardarle però, in fotografia. Però, sempre per valutare le questioni da ogni aspetto, in India pare che il ritiro di queste banconote abbia provocato conseguenze ben più gravi che da noi per il ritiro dai 500 euro, che tutto sommato, insomma, se ne è parlato un po', ma mi pare che questi sfasci emotivi non ne abbia avute nessuno. In un paese, quello indiano, dove il 90% delle transazioni avviene in contanti, si è generato un vero e proprio blocco del sistema a partire dai negozi. E quindi un disastro, nonostante le buone intenzioni del governo. E paradossalmente proprio i ladri, che avevano tanto denaro contanto in tasca, hanno avuto la meglio, prestandolo a questo punto con interessi anche piuttosto significativi. Vedi, ecco qua. Vabbè. Sfruttare sempre le occasioni, esatto. Anche questa è un'arte. Domani ne parleremo a Investire Informati, perché invece l'India è uno dei paesi emergenti nel lungo termine, ha più altre potenzialità di crescita. Vedremo se questa nuova situazione in realtà rischia di compromettere un po' il trend allora di crescita nel lungo periodo. Allora preparatevi, perché il domandone lo farà più o meno in questa zona. Quindi se avete studiato oggi quello che ho detto, domani attenzione. Allora, noi invece, Nicoletta, proprio di contanti torniamo a parlare tra poco, in una dimensione un po' più piccola e più vicina a noi, quella del nostro condominio. Ah, bene, ecco. Ci piace parlare di casa, del nostro condominio, dei vicini. Ecco, sì, attenzione, perché invece tutte le spesucce di condominio in contanti non si potranno più pagare. Ecco che qua già faccio subito scatenare. Avete letto di questa notizia? 800 24 00 24, un'occasione per vederci più chiaro. Brava. Se non l'avete letto, e sarà perché ieri invece abbiamo parlato di nonni, una puntata che ha avuto molto successo, è stato molto interesse da parte dei nostri ascoltatori, che hanno continuato a scriverci anche nel pomeriggio. Mi è caduto l'occhio su una notizia che ha come protagonista proprio un'arzilla nonnetta inglese che si è fatta operare di cataratta per poter continuare a giocare ai videogiochi. Eccola. Evidentemente la visione un po' opaca, nebbiosa e indistinta non le permetteva di avere buone performance. Me la vedo lì con la PlayStation. Brava, quella che avevano regalato al figlio più di 30 anni fa. Lei si è appassionata e non riesce, una sorta di, tra virgolette, mettiamo dipendenza, certo. Insomma, lei che cosa ha deciso di fare? Ha detto basta, devo vederci meglio, e quindi ha deciso di risolvere il problema sostituendo il cristallino che era diventato opaco con uno nuovo di zecca. Voi l'avreste fatto? Allora parliamone, perché l'intervento che ha fatto, che ha eseguito la nostra signora inglese, è l'intervento di cataratta, è l'intervento chirurgico più frequente al mondo. Solo in Italia ogni anno se ne eseguono 550.000 e si prevede un aumento del numero di queste procedure, dato che per fortuna viviamo più a lungo. Tuttavia, la cataratta non è una patologia esclusiva delle persone avanti negli anni. Ad esempio, i miopi, sì signori, ce l'hanno più frequentemente e più precocemente. Ma oggi la buona notizia è che, sostituendo il cristallino, i miopi possono correggere anche il disturbo visivo, e non solo i miopi. In questo caso l'intervento, Deborah, vale doppio. Ovvio. Paghi uno, ne risolvi due. Allora, restate con noi per vederci più chiaro sotto tutti i punti di vista. 800 24 00 24. Questo è il nostro numero verde. Iniziate. Per intervenire su tutto, anche solo per certo. Salutarci, perché noi non ci offendiamo. E intanto direi di partire con le notizie economiche del giorno. Un po' di notizie economiche del giorno, ovviamente non le possiamo raccontare tutte, sicuramente possiamo partire dalla borsa che oggi vede di nuovo una seduta positiva quasi spumeggiante per Milano, più 0,87% sul FTSE MIB, più 0,51% Parigi, più 0,38% Francoforte, Londra più 0,68%. Allora intanto ti volevo raccontare una cosa di Londra, Nicoletta, perché la Bank of England ha messo sotto stress test le principali banche britanniche, ce n'è una che non ha passato l'esame, Royal Bank of Scotland, e quindi insomma questo è un po' di tema di preoccupazione questa mattina a Londra. Detto questo, invece, il tema bancario è sempre ben presente a Piazza Affari e Monte dei Paschi anche oggi, che vive veramente sulle montagne russe, perché è partita arrivando ad un nuovo rialzo di 7 punti. Poco fa aveva perso tutto, è andato in negativo, adesso fa più 4. Oggi si riunisce il consiglio di amministrazione per fare una prima valutazione sull'andamento dell'offerta volontaria di conversione dei bond subordinati in azione, che è scattata lunedì. Questa è una delle fasi dell'aumento di capitale di cui il gruppo ha bisogno. E poi sui giornali si scrive stamattina che ci sono degli investitori molto importanti pronti ad entrare nel capitale di Monte dei Paschi. Si parla del fondo di investimento americano BlackRock, dell'altro fondo, il più grande fondo obbligazionario al mondo, PIMCO. Quindi molto movimento che oggi porta di nuovo il titolo a crescere. Siamo a 21 centesimi di euro. Crescono anche i titoli petroliferi. Saipem, Tenaris, Eni sono in rialzo dai 4 punti di Tenaris ai 2 punti di... Scusate, ai 4 punti di Saipem ai 2 punti di Tenaris ed Eni. È partita nella riunione OPEC, il cartello dei maggiori paesi produttori di petrolio, a Vienna. Si scommette sul taglio dei tetti produttivi, sembrerebbe pronta la firma di un accordo, nonostante nei giorni scorsi si sia parlata invece di molta attenzione alla vigilia di questo evento, perché c'è il veto dell'Iran a qualsiasi taglio. Invece, a quanto pare, siamo pronti appunto all'accordo. In calo abbiamo Iux Net-a-Porter meno 0,9, Mediobanca meno 0,4%. Allora segnate questo appuntamento sull'agenda, perché si ripresenta puntuale il 16 dicembre l'appuntamento per i versamenti del saldo per IMU e TASI per le persone fisiche e le imprese. Per non perdersi informazioni importanti, segnaliamo che oggi con il Sole 20, che con il Sole 24 ore, non oggi, forse domani, c'è una guida completa al versamento del saldo che fa i conti anche con un'importante innovazione che riguarda le modalità di pagamento. Infatti, grazie alla conversione in legge del decreto fiscale, i contribuenti potranno adempiere attraverso l'F24 ordinario allo sportello bancario postale anche per importi superiori a 1000 euro. E a proposito di pagamenti e di casa, direi di andare subito al nostro primo approfondimento di oggi. Siamo noi, condomini del mondo. Siamo noi. Allora, andiamo subito intanto a chiarire che la guida è in edicola oggi. Scusate, sono andata io un po' in confusione. Siamo rimasti un po' indietro, siamo andati avanti. Ma non che so, ne ogni so, tanto guarda, capita, è che ce ne sono sempre un sacco di queste guide e quindi insomma mi ero un po' confusa. C'è oggi. Tra l'altro, se volete, noi ne distribuiremo anche un po', perché come al solito siamo stragenerosi. Adesso vi dirò come fare per ottenerne qualcuna. Allora, uno dei nostri argomenti preferiti è la vita di condominio. Sì, perché ci piace un po' farci anche i fatti degli altri. Io ho avuto l'assemblea proprio pochi giorni fa, non sono potuta andare, ho delegato il mio vicino di casa preferito, che è il signor Gaspare, cara Nicoletta. Grande Gaspare, che lo è salutiamo. Un nostro fan, certo. Sì, sì, ci vuole un sacco di bene, ci ascolta sempre, mi interroga sempre sui temi del giorno, su quelli del giorno dopo, se mi incontra. Portagli la guida. Gli porto la guida e anche i tuoi saluti. Certo. Noi invece torniamo a parlare della guida di condominio, perché abbiamo qualche novità nelle pieghe della legge di bilancio. La novità riguarda proprio i pagamenti delle spese e quant'altro. Si rafforza il concetto di tracciabilità per tutto ciò che attiene alle spese sostenute dai condomini, che ovviamente transitano dalla contabilità gestita dall'amministratore. Allora, la tracciabilità dei pagamenti non è certo una novità, non è che si possa far circolare tutto il contante, tutto contante in condominio, anzi tutt'altro. Però la legge di bilancio interviene inserendo anche delle sanzioni amministrative a carico degli inadempienti. Inadempienze di che tipo? Brava. Stamattina cercheremo di capirlo con i nostri ospiti. Prima però chiedo agli amici che ci seguono da casa: come pagate le spese di condominio, bonifico bancario, usate il più economico MAV? Vi è capitato che l'amministratore vi chiedesse di pagare in contanti? E siete contenti delle modalità di gestione delle spese? Andate a controllare sul conto corrente condominiale. 800 24 0024, il numero verde per i vostri interventi. Prima di andare ai nostri ospiti, l'altra convocazione. Allora, se volete la guida IMU e TASI in edicola oggi con il Sole 24 Ore, vi chiediamo di inviarci alcune foto che possano testimoniare la vita del vostro condominio, nel bene o nel male. Potrebbe essere, che ne so, un bel cortile ricco di verde. Sì. Avete già preparato l'albero di Natale condominiale? Perché guarda che qua è già pieno di decorazioni in tutta Milano. Ecco. Io faccio l'albero all'Immacolata. Ecco. No, poi, tanto per dirvi. Oppure, che ne so, volete fotografare un bel cartello di protesta di un vicino condomino particolarmente turbolento, magari potrebbe essere divertente. Il locale della spazzatura? Anche quello. Scatenatevi con le foto dei vostri palazzi. Sì, magari anche per denunciare qualcosa che non va, noi sceglieremo le 10 testimonianze, le 10 foto più interessanti, faremo la nostra consueta photo gallery dopo il grande successo che ha ottenuto quella dei Salvadanai e alle 10 appunto più interessanti consegneremo, invieremo una delle guide I Mutasi in edicola oggi con Il Sole 24 Ore. Mi piace. Ho finito con le informazioni di servizio, posso salutare Nicola Forte, il nostro consulente tributario preferito, buongiorno. Buongiorno a tutti. Benvenuto, bentornato. Il nostro uomo dei contanti, che detta così non è tanto bella, però lui sa tutto sulla disciplina delle transazioni finanziarie. E poi salutiamo e ringraziamo per essere con noi anche l'avvocato Eugenio Correale, direttore del Centro Studi ANACI, l'Associazione degli Amministratori di Condominio di Milano. Buongiorno, avvocato Correale. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, intanto Michele da Bergamo ci scrive sempre fantastiche, ci scrive, bene, ciao fantastiche, noi paghiamo tramite bonifico bancario. Bravo. Ha risposto subito al tuo invito. Nicola Forte, allora, è il nostro uomo, come dicevo, che ci aiuta sempre a far scaldare gli animi degli ascoltatori quando parliamo di contanti, del limite al loro utilizzo, di pagamenti tracciabili e via dicendo. Allora andiamo subito a spiegare che cosa dice la legge di bilancio 2017 a proposito dei pagamenti in condominio, perché... Nicola, da quello che sappiamo, i pagamenti che vanno fatti per gestire l'ordinaria amministrazione condominiale sono già disciplinati in maniera chiara e rigida da sempre, forse con maggior forza da quando è stata introdotta la riforma del condominio del 2012. Ci spieghi quali novità sono in arrivo? Ma certo, perché appunto già il codice civile con la riforma del condominio prevede l'obbligo di far transitare le somme ricevute da terzi o da condomini sul conto corrente, qualsiasi pagamento da parte del condominio deve passare da un conto corrente. Io direi che la novità sostanziale, visto che questo obbligo di tracciabilità già c'era, in realtà consiste nell'applicazione di specifiche sanzioni, perché la norma così come era scritta nel codice civile non prevedeva l'irrogazione di sanzioni nell'ipotesi di violazione. Oggi abbiamo una norma più puntuale, più stringente, si fa riferimento ai pagamenti di contratti di appalto, di servizi, pensiamo per esempio al servizio di pulizia delle scale o un'attività svolta da un giardiniere, anche queste attività devono passare, devono essere tracciate, non è possibile utilizzare il denaro. Quindi contante. Diciamo che prima la norma non era proprio cristallina su questi aspetti, sì, chiarissima. Anche, era un po' opaca come il cristallino. Brava, doveva fare la più, potremmo dire soft, ad esempio si diceva l'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi sul conto corrente, quindi in realtà poteva, e direi che ancora oggi può ricevere denaro contante, ma deve poi transitare sul conto corrente, cioè deve essere versato sul conto corrente. E questa norma c'è ancora. La nuova norma invece disciplina i pagamenti di appalto di opere e servizi, ma sotto questo profilo la norma del codice civile già lo prevedeva. Ci fermiamo, ci sono i suggerimenti per chi è in viaggio, poi chiederemo all'avvocato Correale in rappresentanza degli amministratori di condominio se queste precisazioni di legge rendono la vita un po' più semplice o un po' più complicata appunto agli amministratori di condominio. Tra poco. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta... Cuore e denari. Allora, le foto della vostra vita di condominio ce le potete mandare su Facebook, su Twitter, su WhatsApp, le guarda tutte Nicoletta. Ne stanno arrivando tante, molto carine. Feste di condominio anche molto divertenti, per cui tutti vi potete meritare la guida I Mutasi in edicola oggi con Il Sole 24 Ore che noi vi invieremo. Detto questo, appunto, anche via mail. Via mail. Ci sta suggerendo Carmela, ma a sua volta il suggerimento arriva da Marco, perché noi siamo in esatto. tanti qua. Cuoredenari@radio24.it. Allora, avvocato Eugenio Correale, direttore del Centro Studi ANACI di Milano, l'associazione degli amministratori di condominio. Se la norma di cui stiamo parlando passerà anche al Senato, cambierà la legislazione vigente dal 2007 che stabilisce che per il condominio c'è l'obbligo di pagare, no, cambierà la norma che dal 2007 stabilisce per il condominio l'obbligo di pagare una ritenuta del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. Allora, ci traduca un po' in termini umani questo passaggio di legge. Si tratta per voi di una semplificazione o di una complicazione per voi amministratori, ma anche per i condomini? È difficile dare una risposta secca rispetto a due novità. Una prima novità è sicuramente semplificatoria. Mentre oggi dobbiamo pagare la ritenuta d'acconto, quale che sia l'importo, e dobbiamo pagarla mensilmente, in futuro potremo pagarla o due volte l'anno, oppure, per il caso in cui il condominio operi pagamenti davvero esigui, una volta sola l'anno. Questa è sicuramente una semplificazione, direi anche un risparmio, perché certe volte accadeva che la ritenuta costasse meno del MAV che veniva usato per pagarla. Ma quindi esiste il limite al di sotto? Sì, esiste un limite, esiste un limite, perché è previsto che sotto, mi pare, i 500 euro scatta il pagamento semestrale oppure annuale a seconda delle situazioni. Questo va benissimo, indiscutibilmente opportuno. Poi la seconda parte va vista, perché va vista alla luce di un regolamento futuro. Noi siamo sempre agli annunci di un qualcosa che poi sarà specificato. Pare che sarà introdotta una sanzione ulteriore, una nuova sanzione, per il fatto che il pagamento, al posto di essere eseguito a favore dell'impresa con bonifici stali o di conto corrente, oppure con altre modalità di cui parleremo un attimo, si è eseguito con mezzi non tracciabili. In questo caso sarebbe comminabile una sanzione da 150 euro per il caso in cui, appunto, il pagamento sia eseguito in contanti. Qual è l'osservazione da fare? La norma rimanda ad un decreto che dovrà essere emanato, quindi dovremo leggere il decreto per capire come diavolo si dovrà fare. E questa, quindi, è la diciamo, parte, tutto dire, questo nuovo impianto è abbastanza improbabile che entri in vigore dal 1 gennaio 2017. Abbastanza, però direi anche una cosa che possa essere anche favorevole per chi non ama i comportamenti ortodossi. Vede, dottoressa, la materia delle detrazioni imposta è vista in maniera diversa dal contribuente e dallo Stato. Per il contribuente si tratta di pagare pochi quattrini, il 4% su una fattura che potrebbe anche essere a sua volta abbastanza piccola. Per lo Stato è un comportamento molto antipatico, sostanzialmente una specie di trattenuta in debita, di appropriazione in debita di quattrini che sono suoi, già dello Stato, perché lo Stato dice: quando paghi 10 lire, una lira è mia e la devi dare a me. E quindi la vuole subito e presto? Perché... Non solo la vuole subito, ma la vuole con una sanzione penale. Ora, lo stranissimo effetto di questo decreto, che aspettiamo di leggere nella versione finale e così via, e che vorrebbe portare ad un alleggerimento definitivo delle sanzioni, poiché passeremo da sanzioni penali anche abbastanza pesanti e soprattutto automatiche ad un regime di sanzioni amministrative che, viva Dio, è sempre più gradevole. Sono un po' più leggere. Insomma, è più leggero rispetto alla sanzione insomma, penale. Allora, avvocato, adesso sentiamo una domanda di un ascoltatore, poi però attraverso un esempio molto pratico vorrei che veramente ci spiegaste con chiarezza le ricadute di queste novità. Sentiamo intanto Maria da Milano, che ci racconta che comunque con chi si occupa delle pulizie, delle parti comuni dell'edificio in cui vive, insomma, la mancia, Maria, com'è generalmente? In contanti? Beh, la mancia è un conto è quello che è invece la retribuzione, insomma, di questa persona. Maria? Sì, buongiorno. La mancia, alla fine dell'anno noi diamo una mancia, siamo 39 condomini e tutti siamo d'accordo, perché la nostra pulizia, anche il deposito dove mettiamo appunto immondizia, è molto ben organizzata. Bene, ma la mancia significa liberata, che questa persona non viene pagata ogni mese attraverso un amministratore di condominio? Cioè, viene tutto, regolare, è tutto estremamente regolare. Solo questa mancia, ma in generale le mance come si gestiscono, perché da quel, come sembra, noi dovremmo registrare tutto. Anche questo. Le mance ai bambini. Aspetti lì un attimo. Anche no, le adesso... mance ai bambini, no, ai nipoti. No, vedi? Ci mancherebbe altro. Nicola, forte, adesso almeno la mancia a questo ragazzo, questa ragazza. Ecco. Certo, sì, anche perché la norma fa riferimento ai corrispettivi. Il corrispettivo vuol dire quanto pago, il prezzo per una prestazione, e la mancia è una liberalità, e cioè qualche cosa che si dà spontaneamente, che non è dovuto, quindi è come se me... gli dessimo alla fine dell'anno il pacco con il panettone, certo, e lo spumante, insomma, ecco. Dobbiamo ragionare in questi, certo, termini, perché secondo me altrimenti diversamente sarebbe l'abrogazione, certo, l'abolizione del contante. Ecco, però volevo dire una cosa. No, se ce la fai in 5 secondi, se no rimandiamo alla seconda parte. Va bene, rimandiamo tre, a dopo. Tre, okay, via. Perfetto. Dopo facciamo, quindi Maria, continui a fare attraverso questa colletta con tutti i condomini questo regalo a questa persona, se le fa soprattutto un buon lavoro. L'importante è che invece lo stipendio mensile sia regolato e disciplinato regolarmente, appunto. A tra poco, dopo il giornale radio. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Cuore e denari. Dove va il denaro? Se ne va veramente tanto per pagare le spese di condominio, non parliamo di questo problema a Milano, magari in altre città italiane, così le rate sono un po' più leggere, ma nel capoluogo lombardo effettivamente si tratta di spesucce non indifferenti. Detto questo, l'importante è che queste spese vengano sostenute con tutte le regolarità del caso, i pagamenti vengano fatti secondo le regole in vigore della tracciabilità. Ci sono delle novità in arrivo nelle pieghe della legge di bilancio 2017. Ci stanno spiegando tutto il nostro consulente fiscale, il nostro tributarista Nicola Forte, esperto su questi temi per il Sole 24 Ore, l'avvocato Eugenio Correale, direttore del Centro Studi ANACI, l'Associazione degli Amministratori di Condominio, appunto, di Milano. Poi le vostre domande 800 24 00 24. Abbiamo spiegato in maniera serena che la mancia alla persona che ci fa le pulizie, non lo stipendio, è la mancia che si riconosce alla fine dell'anno, può ancora essere erogata ed elargita in contanti. Allora, dovevamo far completare un ragionamento a Nicola Forte, e poi ho una domanda per l'avvocato Correale, poi la domanda della di Vito dalla provincia di Milano e tutte le altre che ci stanno arrivando agli SMS su WhatsApp e non solo. Nicola. Eccomi. In realtà la norma contenuta nella legge di bilancio, una volta che sarà approvata, già prevede l'irrogazione di una sanzione, perché si a fa chi? All'amministratore che non fa transitare con regolarità le somme per i pagamenti. Diciamo che la norma ovviamente è neutra, nel senso che si limita a precisare, ecco, ce l'ho qui davanti a me, l'inosservanza della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al decreto legislativo 471, cioè da 250 a 2000 euro. A 2000. Quindi in realtà qui la norma è completa. Anzi, rispetto potrebbe a quella... essere che ricade la sanzione su tutti i condomini. E quindi che poi l'amministratore la ripartirà pro quota. Questa potrebbe essere un'ipotesi. Ecco, sotto questo profilo, certo, chiarezza andrebbe fatta. Ecco, esatto. Ecco. Però la sanzione ce l'abbiamo sin da subito, quindi quando la norma entrerà in vigore in realtà... Non è una parte per cui è necessario un decreto attuativo, sostanzialmente. Assolutamente no, il decreto attuativo magari lo preciseremo dopo, è per un altro tema, un'altra questione. No, ce lo dica subito, va, così. Il decreto attuativo, o meglio, sarà un decreto del Ministro delle Finanze che potrà indicare quali sono mezzi in grado di assicurare la tracciabilità, perché noi pensiamo ovviamente al conto corrente, bancario, postale, l'assegno non trasferibile, ma possiamo anche pensare appunto a pagamenti con conti correnti, bancomat, carta di credito. È ovvio che nei condomini di piccole dimensioni probabilmente sono mezzi che non si utilizzeranno, però questo decreto in genere ha una portata ampia. Per altre esperienze, altre norme, spesso si è assicurata la possibilità di procedere a pagamenti con altri mezzi. Allora le faccio subito sentire, ti faccio Nicola sentire subito la domanda di Vito dalla provincia di Milano, poi vado alla domanda promessa appunto all'avvocato Correale. Vito, benvenuto, visto che l'assegno l'abbiamo citato proprio poco fa. Vito? Grazie, pronto? Sì, buongiorno. Ci siamo. Buongiorno. Forza, Vito. Volevo soltanto chiedere questo, l'assegno è come se fosse contante, perché io pago con l'assegno le spese condominiali. Certo Vito, allora forte. No, nel senso infatti. Che è un mezzo in grado di assicurare il controllo, perché l'assegno immagino sia sicuramente non trasferibile, è vero che gli assegni teoricamente sotto i 1.000 euro, se io mi rivolgo espressamente alla banca posso chiedere il rilascio di un carnet di assegni che siano trasferibili, ma normalmente sono tutti non trasferibili, quindi il condominio necessariamente dovrà versarlo sul conto corrente, quindi assicuriamo la tracciabilità. Avvocato, grazie. Allora, avvocato Correale, abbiamo anticipato prima, precisato prima che delle precisazioni la norma le fa a proposito di tutte quelle prestazioni condominiali relative a contratti di appalto di opere o servizi. Allora, ci aiuti a capire meglio. Facciamo un esempio, dobbiamo rifare la facciata dello stabile, il lavoro viene appaltato, dopo averlo deliberato regolarmente in assemblea, ad un'impresa. Come va fatto il pagamento? Quali sono i nuovi adempimenti a carico dell'amministratore? Cosa devono fare i condomini, oltre ad essere in regola con le spese condominiali, naturalmente? Beh, la situazione che si delinea è una situazione tutto sommato, come dire, migliorativa rispetto al livello precedente. Noi avevamo già un regime per cui occorreva che i condomini pagassero unicamente con strumenti tali da far affluire gli importi nel conto corrente condominiale. Per quello che riguardava invece i pagamenti all'impresa, come dire, eravamo un po' incerti. Ora sappiamo che possiamo pagare o con bonifici postali o bancari oppure con altri strumenti che ancora non sono stati ben precisati e che nel caso in cui si ometterà questa, si violerà questa norma, noi abbiamo la possibilità della sanzione di cui parlava prima. E questo è, puoi dire, fotografico quello che può accadere. E per quello che riguarda la ritenuta d'acconto, noi abbiamo un miglioramento notevole, perché mentre prima eravamo obbligati a pagare comunque la ritenuta d'acconto alle scadenze mensili, in futuro avremo questo obbligo unicamente quando l'importo delle ritenute supererà i 500 euro. Se vuole io la traduco in maniera diversa. Bravo. Per quello che riguarda i condomini non cambia nulla. Ecco. Occorre che continuino a pagare come hanno sempre fatto con MAV, con sistemi che riguardano comunque il versamento nel conto corrente condominiale. Per quello che riguarda l'amministratore di condominio, è rafforzata l'idea per la quale tu non puoi pagare in contanti, ma viva Dio, nei confronti di un'impresa non vedevo come si potessero pagare in contanti somme enormi. Nel caso in cui tu paghi più di 11.000 euro devi fare la ritenuta mensile, nel caso in cui paghi meno di 11.000 euro farai la ritenuta ogni 6 mesi, ogni anno o certo. Meglio ancora quando superi 500 euro. Senta avvocato, allora ecco, qua stiamo parlando ovviamente poi di tutti gli adempimenti gestiti dall'amministratore di condominio. Ci stanno arrivando una marea di segnalazioni, come anticipavamo anche poco fa, da parte di persone che abitano invece in palazzine composte magari da poche unità e che non costituiscono come dire, la struttura del condominio, tale per cui è necessario dotarsi dell'amministratore, eccetera. Allora, queste persone qua, queste situazioni, come vanno gestite? Io ritengo che la norma non riguardi questi casi. In realtà manca quello che si chiama accento circonflesso, perché la normativa dice condomini con una accentazione che non è quella che sarebbe, deriverebbe dalla nostra grammatica. Ugualmente si capisce perfettamente che la norma fa riferimento al pagamento eseguito dal condominio in quanto tale e non dal condomino. Come diceva il vostro esperto, la norma continua poi con la previsione di una sanzione e la sanzione è chiaramente relativa unicamente al condominio e non al singolo condomino. Senta, come in termini più chiari, questa disposizione riguarda l'amministratore di condominio, non riguarda il condomino. Nel caso di piccoli condomini nei quali chi paga è il singolo interessato, non vedo come si possa pensare che il condomino che paga abbia gli stessi doveri, gli stessi obblighi che all'amministratore di condominio che paga. E però Giorgio ci chiede, insomma, proprio in questi casi in cui non c'è l'obbligo di amministratore, come per esempio in questa palazzina da 6 unità, come bisogna comportarci? È necessario sempre, anche per logiche organizzative di tutte le persone appunto che abitano in queste situazioni, avere un conto corrente condominiale? Comunque auspicabile, avvocato Correale, lei che ne pensa? Assolutamente sì, assolutamente sì, ma le dirò che la normativa, la riforma del condominio ne parla, perché l'articolo 1129, il nuovo conio, prevede espressamente una figura nuova. Oltre all'amministratore di condominio, come noi lo vediamo, è prevista la figura del cosiddetto amministratore di fatto. In un condominio di 6 palazzine, quando ci sarà da fare un pagamento di 1000 euro ogni tanto, evidentemente non varrà la pena di istituire delle forme organizzative particolari. Ma quando occorre fare la facciata, occorre rifare il tetto, abbiamo da spendere 50.000 euro, siamo 3 condomini, ma comunque il tetto va rifatto, ecco, in quel caso, in quell'occasione, probabilmente darsi un minimo di organizzazione, anche di struttura, è meglio. E non è necessario nominare l'amministratore. Il condomino di come dire, buona volontà assumerà l'iniziativa ed è previsto dalla legge, non ha una proposta. L'ultima domanda, avvocato Correale, poi ho l'ultima per Nicola Forte e chiudiamo qua questa parte di denari. L'amministratore può, in circostanze straordinarie, raccogliere denaro contante se un condomino, per varie ragioni, può essere un vecchietto che non può andare in banca a fare queste operazioni appunto tracciabili, non potesse pagare appunto con forme tracciabili, ma avesse qua la sua pensione in casa, i suoi soldini e magari preferisce attraverso l'aiuto di un vicino pagare le rate mensili proprio con la forma contante, secondo lei? In quali casi si può chiudere un occhio? Se mi dà del denaro contante, io non è che posso ucciderlo, però no, un obbligo che è quello di prendere quel denaro contante e versarlo sul conto immediatamente condominiale. Perfetto. Quello è la soluzione, c'è sempre. Il principio è trasparenza e liquidità. Chiarissimo. Nicola Forte, prima di salutarci, le ultime raccomandazioni sul tema delle tracciabilità di pagamento per rendere serena la vita di condominio, prima poi naturalmente di vedere questa norma definitiva nel nostro ordinamento, provvedimenti attuativi compresi. Ci ritorneremo sicuramente nelle prossime settimane. Intanto, che messaggio finale vogliamo trasferire ai nostri ascoltatori? 2 messaggi veloci. Innanzitutto sono perfettamente d'accordo con la soluzione dell'avvocato, perché il codice civile prevede che l'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute sul conto corrente, quindi io posso ricevere contante e trasferirlo sul conto corrente, quindi rispetto la norma. E poi direi, cerchiamo di superare questo impatto quasi traumatico coi mezzi elettronici di pagamento, perché sono un ha ragione, supporto, sono ancora così per qualcuno. È un supporto, è un aiuto, e soprattutto dopo tanto tempo aiutano a ricostruire tutto ciò che è avvenuto. E dato che il fisco ogni tanto ci chiede qualche informazione che si perdono nella notte dei tempi, così siamo in grado di rispondere velocemente. Morena ci chiede: chi controlla l'operato dell'amministratore di condominio? I condomini, Morena, ci sono dei consiglieri che vengono appositamente nominati da parte di tutti gli altri condomini e quindi hanno la piena delega anche a fare un controllo di tutte le spese sostenute. Io ne ho una rigidissima nel mio condominio che fa un lavoro eccezionale, per cui se il bilancio è fatto in maniera corretta si partecipa alle assemblee di condominio, si contestano le cose che non risultano chiare e quindi si fa da vigilanti della propria vita condominiale, perlomeno per me è questo. Poi però, se è un tema sentito, ci torneremo prossimamente. Intanto tutto chiaro, grazie a Nicola Forte e all'avvocato Eugenio Correale, grazie per essere stati a Cuore Denari. Ah, sì. E a proposito di chiarezza, sì, voglio subito darvi la possibilità di capire se il tema che affrontiamo in questa seconda parte di trasmissione può essere di vostro interesse. Lo faccio proponendovi alcune semplici domande. Andiamo. Fai fatica a leggere? Ti danno fastidio le luci, in particolare i fari delle macchine? Vedi sdoppiato o noti degli aloni? Hai una visione alterata dei colori? Poi ho visto gli occhi tuoi. Attenzione, allora, quante di queste domande avete risposto sì, ni, nel senso qualche volta, oppure no? 800 24 00 24, qui in studio è tornato a trovarci, siamo molto contenti, il dottor Lucio Buratto, direttore del Centro Ambrosiano Oftalmico. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta. a cui chiediamo oggi di aiutarci a vedere chiaro, nel vero senso della parola, perché vogliamo avere tutte le informazioni sull'intervento di cataratta. È un intervento che, sostituendo il cristallino che è diventato opaco, restituisce una visione più chiara, ma non solo, può anche permetterci di risolvere disturbi refrattivi già presenti. Ma andiamo per ordine. Dottor Buratto, la cataratta è uno degli interventi più richiesti e praticati. La ragione è sotto gli occhi di tutti, la vita media per fortuna si è allungata, ma a credere che sia solo colpa degli anni si peccherebbe un po' di leggerezza, perché c'è dell'altro, ci sono altri fattori di rischio che contribuiscono a far opacizzare questa lentina. Sì, certamente ci sono per esempio le miopie molto forti che hanno con più frequenza cataratta, ci sono i glaucomi, ci sono altre patologie dell'occhio, ci possono essere terapie tipo la terapia cortisonica se prolungata che può indurre cataratta. Diciamo che la cataratta compare anche più precocemente di quanto non avvenisse nel passato, oltre che essere, diciamo, più interessata la persona adulta, la persona anziana, avanti con gli anni. Ci sono anche delle malattie che non necessariamente visive, oculari, che possono in qualche modo accelerare questo processo di opacizzazione del cristallino, farlo invecchiare più precocemente, certo. Insomma, penso al diabete, corretto? Il diabete è tremendo sotto questo punto di vista. I diabetici dopo 20 anni di malattia, almeno uno su 4 ha cataratta. Se pensiamo che un diabetico può essere tale a 20 anni, a 40 anni può avere la cataratta, se lo è a 30 può averla a 45, a 50. Professore, alcuni ascoltatori ci hanno già scritto pregandoci di parlare anche di cataratta congenita. Se ne parla ancora, esiste ancora questo problema in Italia? Esiste, per fortuna è un po' diminuito ultimamente perché la prevenzione, l'informazione alle madri in gravidanza e ai pediatri sono più attenti a queste problematiche, anche la trasmissione familiare è controllata meglio, per fortuna se ne sono di meno, comunque si operano anche queste col cristallino artificiale e si ottengono dei risultati, devo dire, molto buoni. Ci sono persone, lei ha citato i miopi, che sono più predisposte alla cataratta. Lei parla quindi di tante persone, perché la miopia è un disturbo refrattivo che interessa milioni di persone. Ma come mai, dottor Buratto, i miopi hanno un rischio maggiore di altri di avere la cataratta? Che relazione c'è tra questo difetto e il cristallino, e soprattutto che cosa può fare un miope per mantenere il cristallino in buone condizioni, per rallentare questa progressione? Diciamo, quando parlo di cataratta nei miopi intendo dire che si tratta di miopi molto forti, in generale sopra le 6, 7, 8 diottrie, non miopi leggeri. È un po' il problema dell'occhio miope, che ha difficoltà sia per la retina sia per la pressione, sia un po' tutte le strutture dell'occhio sono un po' più deboli, sono più vulnerabili, se così posso dire, agli insulti moderni, se vogliamo, chiamiamoli così, la luce, i raggi ultravioletti, la luce blu, eccetera. La qualità eccetera. Dell'aria? La qualità dell'aria, l'alimentazione, l'uso degli occhi che si fa sempre molto più continuativo e forte. Ma voi avete notato un aumento del numero di persone che si devono fare operare di cataratta, sì, tra i giovani, a seguito anche dell'utilizzo di PC, tablet, dispositivi, oppure in influenza, non no, c'è relazione? No, giovani direi di no. No, penso ai quarantenni, ecco. E senz'altro, diciamo, l'uso continuativo di device, chiamiamole così, per vicino, stimola la formazione della cataratta, la progressione della cataratta. Questo è documentato da molti lavori scientifici. Però no, per la cataratta da queste, diciamo, cause direi di no. Certamente però è prevedibile che in futuro queste si verificano, perché avendo i giovani cominciato adesso a un'età molto, molto bassa, diciamo, usare questi sistemi, è facile che ci sia un accumulo, diciamo, di radiazioni o comunque di azioni tossiche sull'occhio che a lungo andare potrebbero effettivamente comportare un aumento della cataratta. Prevenire meglio che curare e anche operare. Allora, dottor Buratto, lei ha citato anche l'alimentazione. Ci sono delle ricerche che dimostrano che anche l'alimentazione, quella ricca di luteina, zeaxantina e vitamina E, può aiutare a prevenire o ritardare questo problema, è corretto? Quindi? Assolutamente, sì, diciamo che la cataratta, uno dei fattori patogenetici è l'ossidazione, quindi gli antiossidanti. tutti gli antiossidanti agiscono positivamente sotto questo punto di vista. Un'alimentazione prevalentemente vegetariana a base di frutta e verdura molto colorata, di pesce, di omega 3, omega 6, riducendo il componente grassa, riducendo le carni rosse, riducendo tutti i grassi, eccetera, eccetera. Poi alla fine si torna sempre lì. Comunque, per l'ascoltatore che già mi ha scritto, ma allora dove si trovano queste sostanze? Allora, io mi ero preparata, wow. Eccoli là, tutte spinaci, cose buone. Radicchio, cavoli, broccoli, bietole e peperoni. Eccoli solo là, per citare quelli che sono più ricchi delle sostanze che abbiamo citato. Di stagione ne abbiamo, quindi non è che non le trovate. Per fortuna però il cristallino si può sostituire, è uno degli interventi, come abbiamo anticipato, più praticati al mondo. A descriverlo, dottor Buratto, sembra un gioco da ragazzi, perché si toglie una lente e se ne mette un altro, però ecco, di questo parleremo, anche perché soprattutto i cristallini non sono tutti uguali, abbiamo un'ampia varietà di scelta. Allora intanto un ascoltatore via WhatsApp ci scrive subito: buongiorno, volevo sapere quali sono le eventuali complicazioni dell'operazione. Stefania da Brescia: è meglio intervenire subito o attendere che la cataratta maturi? Me la bacerei. Stefania da Brescia, bella domanda. Un tempo si aspettava che la cataratta maturasse come l'albicocca, adesso invece la cogliete un po' più acerba, dottor Assolutamente Buratto. Sì, ma diciamo che l'esigenza del paziente moderno, che vuole vedere bene, che vuole sempre avere la vista a posto, ma anche grazie ai grossi miglioramenti che sono stati nell'intervento, la sicurezza di esecuzione, la precisione di esecuzione, le bassissime complicazioni hanno favorito, diciamo, una maggior percentuale di pazienti che si fanno operare. Se prima uno temeva l'intervento perché le probabilità di complicazione erano del 15-20%, adesso il rischio può essere dell'1-2%. E quali rischi possono correre? Diciamo, il più frequente è che si rompa l'involucro della cristallina durante l'intervento, che si debba posizionare il cristallino in posizione diversa, cristallino artificiale intendo, o che ci sia qualche piccola reazione infiammatoria post-operatoria della retina o del segmento anteriore dell'occhio. Diciamo che le complicazioni sono quasi sempre controllabili e sono veramente rarissimamente complicazioni tali da impedire all'occhio di recuperare una vista buona. Beh, questo ci rassicura. Andiamo a Marco da Roma. Buongiorno, Marco. Sì, salve, buongiorno. Lei buongiorno. Ha risposto alle domande? Sì, ho risposto con un più o meno sì a tutte le domande. Allora, le risentiamo, così le facciamo sentire anche i nostri ascoltatori. Magari Carmelo, la memoria. Carmelo è pronto. Vedi, è pronto. Che tac, ma è nato subito. Pronto. Andiamo. Fai fatica a leggere? Ti danno fastidio le luci, in particolare i fari delle macchine? Vedi sdoppiato o noti degli aloni? Hai una visione alterata dei colori? E sempre tu canti, sempre la nostra Alessandra De Luca, che oltre a essere bella, bionda, coi capelli, adesso è dimagrita, non ne aveva bisogno, anche di 5 kg. Allora le ho promesso che te l'avrei detto. Comunque, Marco, buongiorno. Perché così se la vedo le faccio i complimenti. Brava. E non faccio la gaffe. Perché no, mi ha detto, vale. mi vedi un po' diversa. No, vabbè. Ma forse ho anche un po' di problemi di cataratta. Marco, buongiorno. Buongiorno, ecco, buongiorno, lei ha risposto buongiorno. Praticamente... Sì, l'ultima domanda, ritiro il sì, perché non vedo, i colori li vedo bene. Almeno quelli del semaforo e dei calzini, sì, ci auguriamo. Esatto. Beh, quelli dei calzini sono sempre a rischio, perché qua... La domanda che volevo porre, insomma, che da un po' che la vedo, diciamo, davanti ai miei occhi la cosa, è che con l'occhio sinistro vedo un pochino più scuro di quello che vedo col destro, o forse col destro vedo più chiaro. Più chiaro, ecco, bisogna vedere se da destra o da sinistra. Specchio, ho notato che appunto proprio vedo la pupilla leggermente più chiusa, quella con cui vedo più scuro, e non so se è una cosa normale, ma è leggera. Però Marco, ma lei è veramente bravo, dottor Buratto, ma diciamo che delle asimmetrie ci possono essere, tutti noi abbiamo una mano più forte, una mano più debole, un piede più forte, così anche l'occhio può essere, diciamo, cosiddetto occhio dominante, uno che ha maggiore capacità visiva dell'altro, e comunque anche la pupilla può avere delle piccole differenze di diametro, senza che questo voglia dire che c'è la cataratta o che ci siano delle malattie dell'occhio o problemi importanti. Comunque, se un occhio vede più opaco dell'altro, diciamo che una visitina dall'oculista io la farei, forse in lei. Un saltino dall'oculista, Marco. L'ha notato, medico. Non la sentiamo però... più, Marco, mi dica? Pronto? Sì, pronto. Con chi parlava? Dicevo, ho fatto una visita non molto tempo fa e l'oculista non me l'ha segnalata questa cosa, non so, me ne sono accorto io, forse è molto delicata e magari... esagerando. Magari poi tra una visita, non si preoccupi Marco, da una visita all'altra magari insorge qualche, si manifesta qualche piccolo... Diciamo che se il disturbo continua e si fa più presente, vale la pena magari di ritornare e vedere un'altra visita ancora, cosa può offrire, se può dare una diagnosi diversa, può darsi che ci sia qualche cosina di semplice, niente di particolarmente pericoloso o brutto. Intanto diciamo. Bravo Marco, perché si è osservato con attenzione, vada dall'oculista e lo porti con lei davanti allo specchio e poi ci scriva. Noi, tu li vedi bene i mercati? Benissimo, sono belli... guarda, sono tonici stamattina per fortuna, quindi li guardo anche più volentieri del solito. Vedi, anche il dottor Burato è contento. Allora, adesso andiamo, vedo di se è un investitore, notizia. Lo interrogo a microfoni chiusi, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Cuore e denari. Hai delle isole negli occhi e il dolore più profondo. E siamo ritornati insieme, oggi stiamo parlando di occhi, di vista, di catarata. Il nostro ospite in studio, il dottor Lucio Buratto, direttore del Centro Ambrosiano Oftalmico di Milano. Tante le richieste, le testimonianze anche dei nostri ascoltatori. Renzo ci scrive al 349-238-6666, ho fatto la catarata, fantastico, ma ci chiede, è per sempre? Dottor Buratto, è per sempre? Sì, l'intervento è per sempre. Ho 55 anni, ci scrive un altro ascoltatore o ascoltatrice, un messaggio su WhatsApp, sono stato operato un mese fa con lente correttiva per forte miopia. Abbiamo detto che i miopi hanno un rischio maggiore di sviluppare la cataratta e stiamo parlando adesso, ne affronteremo con la possibilità di sostituire il cristallino con uno nuovo di pacca, di zecca e correggere anche il disturbo refrattivo. E quello che è successo al nostro amico che aveva una forte miopia, meno 11, meno 13, è molto soddisfatto adesso. Ha meno 0.75, meno 1, quindi può stare anche senza occhiali. Claudio da Biella, Claudio buongiorno. Buongiorno. Eccoci a lei, ci racconti. Mia moglie qualche anno fa, un poco meno di 50 anni, è stata operata del catarata entrambi gli occhi e poi successivamente anche della catarata, credo si chiami secondaria, con il laser. Adesso ha problemi di notte nella guida, quindi problemi con la luce degli altri veicoli che vengono incontro, anche nel vedere la TV. Le è stata fatta anche una correzione quasi totale della miopia, aveva qualche diottria in meno. Volevo capire se è una problematica legata alla vista o può dipendere in qualche modo dall'operazione e se ci sono delle soluzioni. Grazie, grazie Claudio. Bella domanda, dottor Buratto. Che cosa è successo alla moglie di Claudio? Ci racconti e ci spieghi. Verosimilmente c'è qualche problemino alla capsula del cristallino, vi spiego meglio. L'intervento consiste nel svuotare questa lente e nel mettere all'interno dell'involucro il cristallino artificiale. Questo involucro si può, negli anni successivi dell'intervento, opacizzare in parte e con il laser si va a fare un forellino nella zona centrale di questo involucro. È la cataratta secondaria. La cataratta secondaria. Probabilmente questo forellino si è un po' ristretto nel tempo oppure non è stato fatto sufficientemente largo per avere problemi di visione notturna, quasi sempre la spiegazione è quella. Oppure ci può essere un problema di retina. Trattandosi di un occhio che era miope, i miopi con facilità hanno qualche problema di retina, per cui la qualità visiva non è sempre, diciamo, fantastica e bisognerebbe fare una visita per capire un attimino di cosa si tratta, ma verosimilmente è un problema risolvibile. Quindi si interviene nuovamente. Un'ultima domanda ancora riguarda l'intervento, prima di capire qualche cosa di più di questi cristallini. Di solito, dottor Buratto, si interviene su un occhio e poi successivamente su un altro. A che lasso di tempo deve avvenire il secondo intervento ed è sempre necessario naturalmente rompere in due l'intervento, sì? Beh, diciamo che è preferibile separare i due interventi uno dall'altro, qualche chirurgo li fa anche insieme, ma personalmente ritengo che sia meglio separarli. L'intervallo può essere breve o lungo a seconda un po' dei desideri del paziente. Quando c'è una grossa differenza, diciamo, con l'intervento fra un occhio e l'altro, conviene che il secondo occhio sia operato molto precocemente. se i due occhi sono abbastanza simili si può attendere anche un pochino di più, diciamo una settimana, due settimane, un mese, tre mesi, a seconda un po' dei desideri del paziente. E adesso parliamo dei cristallini, perché con l'impianto del cristallino artificiale la chirurgia della cataratta, dottor Buratto, è sempre più anche un intervento refrattivo, cioè in mani esperti e competenti, questo lo sottolineiamo, ma consente questo intervento al paziente non solo di eliminare questa opacità che impedisce una vista ottimale, ma anche di correggere eventuali difetti refrattivi preesistenti. In pratica, se prima la persona portava occhiali per lontano perché miope, ipermetrope o astigmatico, dopo l'intervento può sperare di vederci senza occhiali. Non è una magia questa, dottor Buratto, ma è il frutto di un'esperienza che può contare anche su una tecnologia sempre più raffinata. Dottor Buratto, andiamo per ordine. Che cosa è importante sapere? Quindi si attende? Diciamo che l'intervento base consiste nel rimuovere una lente opaca e mettere una lente trasparente, quindi correggere il difetto, diciamo, di opacità. Poi si può correggere contemporaneamente anche la miopia o l'ipermetropia, come dicevi tu, Nicoletta. È un po' più difficile per l'astigmatismo, perché l'astigmatismo già richiede strumentazioni più sofisticate, un atteggiamento diverso durante l'intervento. È ancora più complicato se poi uno, oltre all'astigmatismo, vuole correggere anche la presbiopia, ma di questo magari parliamo dopo. Quindi esistono diversi tipi di cristallini, cristallini monofocali, semplici diciamo, che danno visione o da lontano o da vicino a seconda dei desideri del paziente o da scelta del chirurgo. Poi ci sono i cristallini astigmatici, anche chiamati così, o torici per meglio dire, che correggono anche l'astigmatismo oltre alla miopia e alla ipermetropia. E poi ci sono quelli multifocali che possono anche correggere la presbiopia e quindi, diciamo, eliminare del tutto gli occhiali. Mentre per i monofocali e per questi torici o astigmatici, come è giusto? Sì. Gli occhiali dopo l'intervento in alcune occasioni si portano. Sì, diciamo che se noi diamo vista da lontano alla persona con l'intervento, poi per leggere, per scrivere, questa persona deve portare occhiali. Se invece diamo visione da vicino, perché la preferenza magari di stare senza occhiali quando legge, scrive, lavora al computer, eccetera, un occhialino per lontano poi è necessario. È occhiali leggeri comunque, che non impegnano la persona più di quel tanto. Quindi anche la scelta del cristallino dipende sicuramente dallo stato del cristallino stesso, ma anche dal difetto refrattivo, ma direi, dottor Buratto, anche delle abitudini, dello stile di vita della persona. Ad esempio, se una persona sta tanto al computer, quanto tempo magari, se legge molto oppure poco, se passa più tempo in ambienti chiusi o in ambienti aperti. Sono forse queste informazioni che vanno date all'oculista e che l'oculista attento dovrebbe chiedere al paziente, vero? Assolutamente, uno dei grossi progressi che sono stati fatti nella chirurgia della cataratta è proprio la personalizzazione dell'intervento, cioè fare un intervento che non solo tolga l'opacità, che questo è, diciamo, la base dell'intervento, ma che soddisfi anche le esigenze specifiche di quel singolo personaggio, della singola persona che si fa operare. Dottor Buratto, prima di dare la linea alle informazioni sul traffico, una persona miope con un inizio di cataratta, che cosa fa? Aspetta, si opera, prende due piccioni con una fava? Qual è il suo consiglio? Diciamo che la tendenza... Però abbastanza giovane, diciamo un quarantenne. Quarantenne, se riesce ancora a vedere abbastanza bene, può anche aspettare ancora un pochino. Diciamo che il problema è vedere se la cataratta lo lascia libero di fare tutto quello che può fare con i suoi occhi. Perché il problema vero è questo, cioè l'operabilità di una cataratta oggi è stabilita in base alle esigenze che la persona ha in funzione di questa cataratta. Se si riesce a leggere, a scrivere, a guidare bene senza problemi, vedere i gradini con sicurezza, vedere gli ostacoli, valutare le distanze quando guida, eccetera, eccetera, può aspettare. E ancora prima di correggere con un intervento di chirurgia refrattiva la miopia, tanto vale che aspetti un pochino di più e fa tutte e due in un botto. Diciamo che come se uno dice, ha 40 anni, vedi, ha 5-6 diottrie di miopia e volesse farsi correggere e c'è il sospetto che ci sia una cataratta o incipiente, conviene sicuramente aspettare qualche anno che venga la cataratta e con quello si fa tutto. E anche questo è un risparmio. Assolutamente. Risparmio di chirurgia per l'occhio. E certo. Di denari niente, dottore. Anche di denari, ma soprattutto di chirurgia. Pensiamo alla salute delle persone, prima di tutto, poi ai denari. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. vi presenta Cuore e Denari. E guardami negli occhi, ti sembro sempre quella che vuole ad ogni costo la felicità. Non sento più. Eccoci qua, tornati, ultima parte di Cuore e Denari. Cerchiamo di vederci più chiaro. Iniziamo con un messaggio che ci arriva di chiarimento da un ascoltatore che non si firma, ma ci scrive: prima dite che l'intervento è per sempre, poi dite che ci possono essere problemi. Allora, la sostituzione del cristallino è per sempre, uno se ne mette e uno sta, giusto, sì, dottor Buratto? Allora, l'intervento, avere la cataratta vuol dire non avere una lente che si opacizza. L'intervento consiste nel togliere questa lente, rimane solo l'involucro di questa lente che serve di supporto al cristallino nuovo. Quindi, tolta l'opacità, tolta la cataratta, quella è fatta una volta sola. L'opacità che può intervenire sull'involucro è una cosa che può succedere una persona su quattro, una su cinque, negli anni a venire, qualche volta anche prima, ma comunque non interessa a tutti. È comunque una cosa estremamente semplice togliere, non è un intervento chirurgico, non è una cosa grave. Per cui l'intervento per cui siamo è stati per precisi. Sempre. Anche la lente è per sempre, cioè l'intervento è un bel intervento. Poi. Dottore, ci sono dei cristallini artificiali che permettono di vedere sia da vicino che da lontano, sì. E quindi queste, in questo modo si possono svolgere tutte le attività quotidiane o il 90% delle attività quotidiane senza l'uso degli occhiali. A chi sono indicati questi cristallini e soprattutto luci e ombre, perché ci saranno, sì, dei vantaggi, ma ogni cosa, ogni comodità si paga. Diciamo che l'intervento base è quello di mettere un cristallino standard. Poi se si vuole fare qualcosa di più si mette un cristallino astigmatico. Per fare un impianto di cristallino multifocale occorre che ci siano delle condizioni più favorevoli, cioè occorre che l'occhio sia bello, che non ci siano anomalie della cornea, che non ci siano anomalie della retina, che l'occhio sia un occhio sano, bello e che abbia tutti gli esami in ordine. Quindi occorre tutta una serie di diagnostiche in più. Molto raffinate. Molto anche. Raffinate. Anche la chirurgia è più raffinata perché occorre, preferibile usare il laser a femtosecondi per fare l'intervento, occorre mettere la lente con la massima precisione, eccetera. Quindi è un intervento superiore, più raffinato, è come guidare una Ferrari piuttosto che una macchina standard, diciamo. Ecco, no? Per una supervista. Una supervista. E questi cristallini hanno la capacità di fornire visione buona da lontano, intermedia e vicino, quindi senza dipendere dagli occhiali. Hanno qualche inconveniente in visione notturna, hanno un pochino più di sensibilità nei confronti delle luci e si perde un filino di nitidezza sempre in visione serale o notturna. Però la persona che li ha, diciamo che queste cose le vede poco o comunque le riesce a smaltire in poche settimane di adattamento, anche perché il cervello si deve comunque adattare a un nuovo sistema visivo, ha sempre visto in una maniera, adesso si ritrova una cristallina multifocale che non è suo, diciamo ci vuole un periodo di adattamento. Passato questo periodo di adattamento, il cristallino multifocale offre veramente delle prestazioni molto buone. Parlo dei cristallini di ultima generazione, perché non sono nuovi questi cristallini, sono più di 10 anni che li usiamo. Nel passato i risultati erano abbastanza buoni, ma insomma ma non... un po' meno senz'altro di adesso, assolutamente meno di adesso. Ma come fa il paziente a capire che, perché non abbiamo le competenze di un oculista, che il cristallino multifocale che mi viene impiantato è quello di ultimissima generazione? Bisogna... Beh, diciamo che al fine intervento viene lasciata sempre una etichetta che riporta i dati e le caratteristiche del cristallino usato, quindi il paziente può, basta che digiti su internet, vede se è il cristallino di ultima generazione. È meglio farselo dare prima, quindi, sì, ma bisogna, diciamo, comunque fidarsi e affidarsi. Il problema perché... non esiste questo. Dottore, vogliamo parlare anche di presbiopia, che non è un difetto, vero? La presbiopia non è un difetto visivo come la miopia, l'astigmatismo o l'ipermetropia, però è un problema che interessa metà della popolazione italiana, perché tutte le persone oltre i 40 anni soffrono più o meno di qualche grado di presbiopia. Ora, la presbiopia della persona giovane, diciamo fra i 40 e i 50, si può correggere in altra maniera, ma nei casi oltre, diciamo, questa età, diciamo superiore ai 50 anni, l'impianto di cristallino artificiale multifocale può essere una soluzione molto interessante. Bisogna vedere un po', ripeto, le condizioni dell'occhio, perché occorre che siano delle condizioni favorevoli comunque, ma questo può essere un buon sistema per togliere non solo l'occhiale da lontano ma anche l'occhiale da vicino e correggere proprio la presbiopia. Oppure mettere una lente, come mi aveva detto l'ultima puntata, una lentina da una parte diversa. Oppure, questo è un altro sistema. Questa carina, mi piace, la lente a contatto. Mettere una lente a contatto anche con l'intervento di cataratta è una soluzione che adottiamo anche abbastanza spesso. Quando la persona per qualche motivo non è idonea alla lente multifocale, cristallino multifocale, o non lo vuole mettere un cristallino multifocale perché comunque ha un costo maggiore, la soluzione buona per superare il problema della presbiopia è utilizzare una lente che dia visione buona in un occhio e una lente che dia visione buona da vicino all'altro occhio, in modo che la persona ha sempre un occhio che funziona. Lavorano sempre tutti e due insomma, si sincronizzano, se cosa posso dire, ma uno domina da lontano, l'altro domina da vicino, e la persona può stare quasi sempre senza occhiali. È una bellissima soluzione. Però per chi deve lavorare spesso al computer forse può dare qualche disagio. Ecco, diciamo che questa è una soluzione che va bene per chi ha un uso, diciamo, non continuativo della vista. Per chi vive in ampi spazi, guarda lontano. No, diciamo che se lei parla 10 minuti, se lei scrive 10 minuti, se lei sta 10 minuti al computer, tutto questo va benissimo. Multitasking. Se lei sta 8 ore al computer, allora questa non è la soluzione ideale. Grazie dottor Buratto per essere stato con noi. Torni presto a trovarci. Sì, noi io ci domani sentiamo. Non ci sarò. Va bene, terrò calda la giornata, la tua sedia. Molto importante. Che ma cosa mi lasci? Parlerete per la giornata per contro l'AIDS. Ottimo. E quindi parlerete di HIV. Grazie. Noi abbiamo Investire Informati, vi aspettiamo. Buona giornata.